zero. Sta per meno succedere uno. Di nuovo. Zero. Con un meno countdown uno. Poco preciso. Ma stava per non succedere. Ma cosa succede? 41esima puntata. Sì, cosa? Temi che non vedi, perché non sono più quelli che cerchi veramente. Si nutrono della paura della gente, senza terra verde, la musica si riprende. E bentornati, senza riverbero, però comunque è bello avere questa importanza. Sabato 19 novembre su Radio Forte 100 c'è le Avengers, puntuali come delle faine, si riva in onda di sabato, incredibile. Avevo lasciato un'incertezza all'ultima puntata che sembrava quasi che cambiavamo giorno, invece, saluto alla mia destra la nuova fonica del 100 c'è le Avengers, Betta. Buon dia, oggi mi sento un po' brasileira. E saluto alla sinistra la espertona Virginia. Ma ciao a tutti. E a seguire la giornalista faziosa Gabri Grubi. No, bonsoir, io vado di francese. And then the binge watcher Franci. Ciao, ciao a tutti, torno sull'italiano, ciao. Ben ritrovati a tutti, ma soprattutto bentornato Iron Man. E bentornata ecco. Alexa. Ciao. Quanto okay. Ci siete mancati. Molto, molto, infatti l'altra puntata è stata contraddistinta dagli errori, oggi nulla potrà andare male, quando dico questo sapete che succede qualsiasi cosa. Aia. Risata. Diglielo un po'. Che ridere. Diglielo un po', Alexa. Non fare così. E comunque cosa ci sarà in questa puntata? Tante novità, tanta attualità, le solite rubriche, le solite due palle, ma anche cose nuove. Nuove che tendono ad attecchire piano piano, stiamo coltivando degli ascoltatori matematici che, cioè, abbiamo avuto dei fans l'altra volta addirittura da Milano, gente che ha detto sì. Veramente che la rubrica di riassumo così spoiler, genericamente musica e matematica ha avuto un successone inaspettato e quindi piccoli ascolti e quindi applauso. Grande, tutto questo era solo chi l'avrebbe mai detto, chi l'avrebbe mai detto, per fare l'applauso a Franci al coraggio con il quale ha detto io voglio portare, vabbè, connubio fra musica e matematica. Sì, molto apprezzato. Non solo da Giorgino, ecco, che comunque chissà se è in ascolto. Non era l'unico Giorgino. Che era a Milano. Che era a Milano. Che tra l'altro era a Milano, che salutiamo perché oggi pure mi sa che è a Milano o a Torino. Non è con noi Jorge e il Mentirotto. Però noi abbiamo della musica che ci intrattiene mentre. È già il momento in cui, cioè, allora diciamo subito, oggi Gabri Grubi, giornalista faziosa, ha gestito per tre quarti la playlist, sono quasi tutte proposte sue e quindi volevo solo aggiungere così, l'angolo politico, scusa, la Madonna, addirittura fare... politico, vai. Prego. Sì, vai con la locomotiva dei Modena City Ramblers, un pezzo storico che tra l'altro mi ricorda molto la gioventù, quando la sfogavamo sotto palco. Prego maestro, con la locomotiva. Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia un'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. Gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco l'epoca dei fatti, qual era il suo mestiere. I primi anni del secolo, macchinista ferroviere. I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti. Sembrava il treno anch'esso un mito di progresso lanciato sopra i continenti. Lanciato sopra i continenti. Lanciato sopra i continenti. E la locomotiva sembrava un mostro strano, e l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. Ruggendo si lasciava indietro distanze che sembravano infinite,

lanciata bomba contro l'ingiustizia, lanciata bomba contro l'ingiustizia. Radio Forte, 100 celle Avengers, mentre la redazione mi ricorda che la mia poltrona redazionale ha un problema, che potrei a un certo punto non è messa bene, sparire dal collegamento, come se fuoco. Non avessi già abbastanza tensione quando entro in voce. E che cosa succede? Che devo anche parlare dell'attualità, e quindi questo, niente, questo è il tono serio, scusate. Sì, fai un po' di... mettiamo un po' di musica, ok? Dei violini. Siamo tutti, siamo fra amici. Allora, che cosa è successo ieri al Forte? È importante dirlo perché si tratta di una radio, non noi, ma si tratta di Radio Onda Rossa, e cioè la serata di finanziamento che normalmente si fa al Forte, se ne fa anche più di una, e che spesso in questi ultimi anni è stata, diciamo, caratterizzata da una selezione particolare, sarà anche per, diciamo, perché la persona che organizza è sempre la stessa, o comunque spesso la stessa, ma sta di fatto che si è articolata una serata che comincio proprio a mettermi l'auto sottofondo. Una serata che partiva con gli Echoes of Silence da Roma. Per poi sfociare nel live dei Ataraxia. Alti e bassi. Ui. Ecco, non ve pare, io avrei invertito, se potessi dare un consiglio appunto al direttore artistico delle serate di Radio Onda Rossa, avrei invertito i due gruppi, perché appunto questo è stato il gruppo invece che ha concluso il live. Va da sé che a un certo punto, quindi, la serata si è conclusa così. Cioè, finito il live degli Ataraxia, è ritornata un po' di vita. E niente, questo è il riassunto sonoro, sonoro della serata di ieri a finanziamento di Radio Onda Rossa. Chissà quando faremo la nostra nuova serata Radio Forte live a finanziamento di Radio Forte. E comunque siamo sul pezzo, siamo sull'attualità. Jorge il mentiroso sarebbe fiero di noi. E non c'è il meteo, vi posso dire che comunque oggi è piovuto. Ma nessuno ci ha avvertito in tempo, dov'è il mentiroso? Non ho coefficienti, non ho nessuna informazione, il mentiroso purtroppo è lontano da noi, quindi si conclude questa parentesi di attualità stringente riguardante proprio che cosa vi siete persi al ieri Forte, sera. Mentre sentiamo sempre il DJ7 di Elettrodo. Io posso dire che la sento ancora tutta addosso la serata, comunque riverbera. Poi c'è chi se l'è vissuta in un modo, chi e se l'è vissuta in un altro. Vabbè, ma gli Ataraxia mi hanno colpito, devo dire. Lì è stato il momento, l'apice della mia... In effetti ci hanno spiazzato, poi nel pomeriggio come al solito mi chiedevano: ma chi suona, che genere fanno? Quando poi non sai cosa dire dici sempre post-punk. Post-punk. No, fanno post-punk. Penso che dei post-punk ci fosse poco, forse negli Echoes of Silence. Comunque va da sé che io adesso ho dimenticato assolutamente come si conclude questa parentesi. Grazie dell'applauso. Con un brano di musica generica, no? Mettimi una musica generica, con voglia di niente. E quindi chi l'ha selezionata? Cioè, almeno prendetevi la responsabilità, metteteci la faccia. L'ho selezionata io stavolta. Questa è opera di Virgilio. Anche tu, mettici la faccia. Mettetemi un sottofondo, sennò non posso dire niente. Cosa andiamo a sentire? Andiamo a sentire in questo momento Virgilio. Tropicana dei Black Velvet, un brano del 1971, e quindi non c'entra assolutamente niente con Aspetta, la serata di ieri. Perfetto, Black Velvet on Radio 40. sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers alle 17:17 ed era difficile, mamma mia. E mi sento di così spontaneamente passare la parola al giornalista faziosa Gabri Grubbi. Sì, quando sono le 17:18 il mio orologio anche l'avevo ora già adesso. Detto io. Sì, vabbè, perché il mio è leggermente in ritardo. Comunque ci siamo riservati fino ad ora questo momento, cioè di comunicare che siamo orfani del momento culturale, ragazzi, perché oggi non c'è la maestra Viola, non abbiamo i bimbi che piangono, eccoli, subito vengono il nostro soccorso. Iron Man, lo so, anche tu sei sconvolto da questa notizia. Bene, sì, Viola ci ascolta da Salerno, noi la salutiamo e abbiamo pensato di omaggiarla. Basta, bambini, abbiamo capito, ecco. Esatto. C'è la supplente. Quando dici basta sei in cazzo. Tanta gioia e tanta felicità per questo omaggio che, appunto, dicevo, abbiamo deciso di fare alla nostra cara maestra Viola con un brano che, poiché appunto la sua rubrica, come tutti sapete, è quella dedicata a musica e poesia, e ci ascoltiamo un brano di Vecchioni che si chiama La corazzata Butiomki, brano inserito nell'album El bandolero stanco, uscito nel 1996, e La corazzata Potionchi, vabbè, brevemente, insomma, il titolo è tratto proprio da questa celebre pellicola, che è una delle più importanti, insomma, delle storie del cinema, e di produzione russa, La corazzata Potionchi, che è ambientata nel 1905, ha come protagonisti i membri dell'equipaggio della corazzata russa. Mi hanno censurato, questa non è la radio libera, non è la radio libera. Allora, quando dici Russia su 100 Celle Avengers arriva Guido. Ah, ecco. C'è il bot automatico. Quindi i membri di questo equipaggio della corazzata russa nel film, invece Vecchioni ce li tramuta così e ci mette dei poeti in questa corazzata, quindi i membri di questo equipaggio sono i poeti, non solo loro, anche i cantautori che addirittura vengono messi, perché insomma, diciamolo, non so se tu, che non è una canzone magari fra le più conosciute, però chi la conosce sa appunto che è un po' una presa per i fondelli, è una critica che Vecchioni muove proprio ai poeti, cantautori e quant'altro. Ce la sentiamo. Sono sicura che il significato traspare da sé. E dato che oggi faccio questa brevissima parentesi pure, Cigni di Balacà invece non andrà propriamente in onda, perché siamo anche orfani di Cigni. Ecco, la sigla che parte. Scusa. E vi ho scovato questa brevissima idea di plagio, vabbè, proprio che ho scoperto per caso, tra l'altro, di Vecchioni, che pare aver copiato, tra virgolette, vabbè, si sarà liberamente ispirato con la sua corazzata Potionchi che stiamo per ascoltare, ad un brano, sentila, dei Nuovi Angeli, pensate, del 1972, che si chiama Trullala, e a sua volta è una cover di Ratatà, un successo di un gruppo tedesco, dei Rotation, e... bene, ciò detto, questo è stato il mio piccolo cigno. Possiamo passare all'ascolto del brano, maestro, se ce l'hai sotto mano. Senza andiamo sigla, con non no, senza sigla. Cigno. Andiamo con Vecchioni, La corazzata Potionchi, e questo è per Viola. No. Questo. Siamo i poeti, i nani sui giganti. Non si direbbe, eppure siamo viventi. Metaforiamo tutto, da non capirci più se c'era un senso sotto. Abbiamo in testa idee meravigliose che raramente coincidono con le cose. Voliamo alto se non capite niente, peggio per voi, mica scriviamo per la gente. Parte la corazzata Potionchi in un tripudio di bandiere festanti, e si consegnano premi e si proclamano geni, gli altri tutti dietro in barca a remi. Qua e là sul ponte gira un verso d'amore, un po' spaesato in mezzo a tanto splendore, sinestesie fulminanti, allitterati non sensi, mani morte senza complimenti, due battutine sui colori. 4-5 scrivacchini di canzoni. Loro non sanno scavare la parola fino a ridurla come un torsolo di mela. Giù nella stiva, tra i topi e l'olio cuore, c'è ancora posto per qualche cantautore o qualche critico parziale o imparziale, secondo il ritmo della sua vita sessuale. Ho pensato di mettere lo stacchetto dei bambini, o vecchioni, però forse con la maestra viola, non so, ho avuto questa illuminazione. Però mi ha staccato un'orecchia pure a me sto flautino. Sì, lo devo rivedere questo. Suonato male. Sempre in diretta su Radio Forte, certo, c'è le Avengers alle 17.26, grazie Gabri per questa musica nuova. Sempre fresca, sempre attuale. Sempre fresca, sempre attuale. Sì, comunque ecco, contro i poeti ermetici, ecco, mi dicevano dalla regia in modo particolare. Comunque, poi le vostre dovute riflessioni. Era per farmi l'autogancio verso qualcosa, sì, di altrettanto andiamo. Vintage, perché quando si parla di cose che si ricorda, si parla di Amarcord. Che bella, che bella gag che ho fatto. E quindi che cosa succede? Che a Centocelle Avengers abbiamo una rubrica con tanto di sigla, con tutte le licenze di operare. Ecco, là mi si è rotto tutto, mi si è rotta la cuffia. E però la sigla arriverà a fare un pochino. Ricorda lì di te com'eri prima. Pure state fa. L'anno vecchio è finito ormai. Pure state fa. Ti ricordi? Pure state fa. Tutti quanti stiamo già aspettando. Pure state fa. Messaggio che è un nuovo anno. Mi ricordo che anni fa. Pure state fa. Ricordati di me. E Centocelle Amarcord, il saggio che non ricordavi di aver fatto. Questa volta non parla di un'estate fa, come dice la canzone, perché era precisa la canzone, però perché sappiamo e ripetiamo che il saggio questa volta si è fatto con l'ottobrata romana. Il 4 ottobre, il saggio degli mandati, che è fatto da inizio della scuola di musica invece che da fine, quindi tutta una sensazione un po' stramba. Però sempre una miniera di pezzi da farvi ascoltare e riascoltare, ripeto, 4 ore e 26 di saggio per chi non se lo fosse perso. Potete fare quello che ve pare, abbiamo 40 pezzi, quindi qualcosa ascolterete sempre. Esatto. Il problema ovviamente è trovare la traccia. Comunque quello che andiamo a ascoltare è il gruppo degli Aria. Non vorrei ricordarvelo con una sigla, che comunque il gruppo dell'anno scorso era diviso in 4, quest'anno è diviso in 2, quindi non vorrei fare troppa confusione mettendo sigle così a buffo che che confondono. L'hai appena fatto. Esatto. Ma la terra come, come sottofondo? Come sottofondo? Come sottofondo? Cioè Betta, Betta sottofondo. No? Betta sottofondo. Dicevo, la terrei come sottofondo per poi dire che gli elementi adesso sono due, non sono più quattro. Quello che andiamo ad ascoltare però era l'aria, cioè uno dei quattro elementi, viola, viola che appunto omaggiamo anche con questo... Viola, quanti omaggi ti stai con questo beccando? Contributo col gruppo degli Aria eseguiva Tainted Love e adesso succederà il panico, io vado in play, poi quello che va va. Radio Forte 100 Celle Avengers 17:32 di questo meraviglioso sabato 19 novembre. Che cosa succede? Adesso è il momento che tutti stavano aspettando, almeno i neo fan. Ha inforcato gli occhiali. Di 100 Celle Avengers, l'ho visto pure io, ha inforcato gli occhiali, mi sono preoccupato. E come di consueto si spiega nella prima ora, come abbiamo detto anche l'altra volta, gli argomenti di Franci sono diciamo ostici, diciamo un po' tosti, quindi tosti. Ecco, vabbè dai, oggi tostici. Manco tanto, dai. Rimaniamo tostici. Concentrati tostici. Io consiglio di prendere un pezzo di carta e una penna, sì, chi ragazzi, a casa, munitevi di carta e penna, perché aiuta, aiuta, e comunque aiuta anche a registrare o riascoltare in podcast questa, questa puntata, sì, di 100, come quando stavate all'università risbobbinavate le lezioni registrate con voluto dare un senso a questi podcast, perché, più o meno, esatto, cioè, no, più o meno la commestibilità è questa, però abbiamo una sigla. Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io. L'ho trovato io. E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Ma mi sembra un po' fuori del programma e poi magari non a tutti interessa. Sì, sì, interessa. Ah, mi interessa. Ma certo che vi interessa, ma certo. Ah, io insisto che sta sigla veramente si mette nel taschino tutte quelle che abbiamo fatto fino adesso. È stupenda. Ma il titolo della rubrica l'abbiamo detto, cioè vogliamo ribadirlo. È vero, ripetilo tu con la dizione che conosci. Il titolo è Welcome to Grand Hotel Hilbert. Eccolo qua. Molto bene, aspetta, applauso. Ma... problema matematica in musica o musica in matematica, il problema è che poi lui dice numeri con due M, numeri, cioè, mi dà fastidio sta cosa, dovevo dire, però vabbè, numeri, basta che non interroga oggi 14, prego, io scusa, mi tolgo. Bene, grazie maestro, se credo ci sia anche il sottofondo, hai ragione, no, un attimino, una mezz'oretta e ci sono appena sfornato, proprio fresco, sottofondo fresco. È la madonna, allora, aspetta. Devi questo, passarlo, sì, sottofondo. Sottofondo, c'è che pure una scelta nei sottofondi, metti le trombe. Spero che l'abbiate riconosciuto, insomma. Allora ragazzi, oggi si parlerà di sezione aurea, quindi masochisti o matematici all'ascolto o interessati, insomma, adesso vi beccate questa cosa qui. O gioiellieri. Allora, o gioiellieri. Orafi. Allora, la sezione aurea, o rapporto aureo, o numero aureo, o aureo, o costante di Fidia, o proporzione divina. Cosa? Dipende insomma in quale stato è ricercato, un po' tipo Carmen Sandiego. Ah. Nell'ambito delle arti figurative della matematica indica un numero irrazionale ottenuto come proporzione effettuando il rapporto tra due lunghezze disuguali, delle quali no, mo ci arriviamo, cioè, Iron Man, provaci un attimo a ascoltare. È facile. Delle quali la maggiore A è medio proporzionale tra la minore B e la somma delle due A più B. Ok. Mi sono già perso. Chiarissimo. Detto in soldoni. Attenzione, detto in soldoni vuol dire che la somma di A più B diviso A deve essere uguale ad A diviso B. Questa definizione viene detta Φ, praticamente, quando ho due segmenti dove A è un segmento più grande di B. Quando esiste questa proporzione ho la cosiddetta sezione aurea, cioè ho questo valore Φ. Ok. Allora, dopodiché, tramite delle manipolazioni algebriche di questo rapporto, che eviterò di dire in questa sede, si ottiene, diciamo, un'equazione algebrica di secondo grado, che è Φ quadro meno Φ meno 1 uguale a 0. Non capisco. Te lo riascolti dopo, Iron Man. Comunque, è programma di secondo anno di liceo. Sì, no, infatti è roba molto facile, dai. Basta sostituire Φ con la X per chi è a casa. Esattamente, no? Mettere notate la X. Esatto, fate X quadro meno X meno 1, è tutta la stessa cosa. Vabbè, non lo dire così sdegnato, cioè la gente a casa non le sa. Vabbè, lo so. Vabbè, è vero, la X ti fa sentire più a casa. Però la X ti fa sentire più a casa. Allora, la soluzione di questa equazione è appunto il valore della sezione aurea. Ovviamente la soluzione è positiva, perché le equazioni di secondo grado hanno una soluzione positiva e negativa. Prendo la soluzione positiva, che è questo valore, che è 1 più radice di 5 diviso 2. Quindi questo è il valore della sezione aurea. La sezione aurea è quindi un numero irrazionale, ossia non rappresentabile mediante rapporto di numeri interi, data la presenza di radice di 5 appunto nel numeratore. Però è un numero algebrico, cioè è soluzione dell'equazione polinomiale a coefficienti interi trovata poc'anzi. Hai detto numero. Cioè, in radio certe parole non si possono dire. Vabbè, scusa, allora, noi facciamo anche italiano oltre che matematica. Oggi non c'è Viola a cazziare. Che vuol dire diciamo a coefficienti interi? Vuol dire che i coefficienti dell'equazione che ho detto prima, cioè φ quadro meno φ meno 1, sono degli interi, cioè davanti al termine di secondo grado c'è l'1, davanti al φ c'è meno 1 e il meno 1 è il meno 1, cioè il termine costante. Quindi non sono né frazioni né altri numeri strani, ma sono dei numeri interi. Ok. A livello grafico la sezione aurea si può rappresentare come con la spirale aurea, ossia un tipo particolare di spirale logaritmica con fattore di accrescimento B di crescita pari a φ, cioè la sezione aurea. Cioè praticamente, scusa signor Borfaglio, quando stai su un foglio di carta che ti stai annoiando e cominci a fare i cerchietti così, magari vanno un po' cerchi concentrici, vanno ampliandosi. Quella specie di ghiocciolona che credo abbiate visto tutti, aurea, ad esempio nell'uomo vitruviano. Ad esempio nei disegni della Monna Lisa o anche nei loghi di varie bandiere, eccetera. Sì, cioè, ma c'è anche il guscio di un animale che ha questa, che adesso mi sfugge, di cui mi sfugge il nome. La conchiglietta, l'avete vista anche in spiaggia? La conchiglietta. Sì, c'è anche proprio un animale specifico. Questo era l'angolo culturale, scusa, comunque, ti ricordo. No, non lo sapevo. La conchiglietta. Ok. Mo la cerco. Le sue proprietà geometriche e matematiche e la frequente riproposizione in svariati contesti naturali e culturali, apparentemente non collegati tra loro, hanno suscitato per secoli nella mente dell'uomo la conferma dell'esistenza di un rapporto tra macrocosmo e microcosmo, tra Dio e l'uomo, l'universo e la natura. Cioè, Virginia ha alzato la mano. Era il Nautilus. Il Nautilus? Sì. Cioè? La conchiglia. Ok. Aspetta. Bastoni! Bastoni! Mi sono beccato le botte pure oggi. Sì, infatti non ti facciamo parlare. Però l'ho beccato sulla parte che c'entra poco con la matematica e sono felice di questo. Il resto è chiaro. Sì, vabbè, questa è tutta, diciamo, cosa. Allora, aspettate che riprendo un attimo, divento aulico per un momento. Prego. L'universo e la natura, un rapporto tra il tutto e la parte, tra la parte più grande e quella più piccola che si ripete all'infinito attraverso infinite suddivisioni. Diversi filosofi e artisti sono arrivati a cogliervi con un tempo un ideale di bellezza e armonia, spingendosi a ricercarlo e in alcuni casi a ricrearlo nell'ambiente antropico quale canone di bellezza. Testimonianza nella storia del nome che in epoche più recenti ha assunto gli appellativi di aureo e divino. Ok. Bene, ma torniamo alla matematica, se no passiamo a fare solo chiacchiere. Io ti sento un po' basso, Franci, tu ti senti bene? Io mi sento bene. Ok. Prego. Analizziamo adesso il rapporto tra la sezione aurea e i numeri di Fibonacci. Anzitutto vediamo cosa sono i numeri di Fibonacci, perché magari non tutti li conoscono. Allora, i numeri di Fibonacci, anzi la successione dei numeri di Fibonacci, è una successione numerica ricorsiva in cui l'ultimo elemento della successione è individuato dalla somma dei due elementi precedenti. I primi due numeri di partenza della successione sono 0 e 1, quindi facilmente, insomma, questa è abbastanza semplice. Questa ce l'avete. Mm-hmm. La relazione tra il numero aureo e la serie di Fibonacci fu scoperta nel 1611 da Keplero. Egli scoprì infatti che il rapporto tra due numeri consecutivi della successione di Fibonacci approssimava via via sempre più precisamente il numero aureo. Ma Keplero, quale astronomo, non era interessato a dimostrare la fondatezza della sua scoperta, quanto piuttosto a ricercarla nell'architettura dell'universo, nelle sue proprietà divine. Wow. Non a caso concettualizzò un modello eliocentrico in cui le orbite dei pianeti erano iscritte e circoscritte in solidi platonici e di conseguenza legate alla divina proporzione. Non vi sto qui a spiegare cosa sono i solidi platonici, perché ci vorrebbe una puntata a parte. Sappiate che c'entrano con la sezione aurea. La divina proporzione. Esatto. La dimostrazione fu fornita un secolo più tardi dal matematico Robert Simpson, senza la P, in seguito Jacques Binet scoprì la formula generatrice della serie di Fibonacci, detta appunto formula di Binet, anche se probabilmente già nota ad Eulero. Questa formula è una cosa bruttina, vabbè, comunque ve la leggo. È φ di n, cioè l'ennesimo numero di Fibonacci individuato da φ alla n meno aperta tonda 1 meno φ chiusa tonda la n. Piano che sto scrivendo tutto, tutto sotto radice di 5, quindi questa è la, è la, diciamo, la formula che individua l'ennesimo numero di Fibonacci. Non capisco. Sta nelle dispense, non ti preoccupare. È tutto nelle dispense, poi. Vabbè, poi sbobbini. Allora, dai. Poi abbiamo una piccola curiosità. Prego il, prego il maestro di mandare il primo contributo. Vado, eh? Vai, vai. Quando si dice il genio è regolatezza, no? Lo so, io qui ho dovuto richiamare i miei vecchi amatissimi Iron Maiden. Perché dovete sapere che la metà del rapporto aureo è uguale alla funzione seno di 666 misurata in gradi e al netto del segno meno. Quindi sappiate che questo qua, se vi sembrerà ancora una coincidenza, insomma, dopo questa constatazione, non so se vi fiderete più del fatto che Paul McCartney o Pippo Franco siano ancora vivi, ma so di certo che, come ha osservato giustamente la nostra sacerdotessa dello zodiaco Julie, per fare Dio ci vogliono i seni di due diavoli, quindi questo è quanto. Per fare Dio ci vogliono i seni di due diavoli. Sì, perché... bellissimo. Funzioni ovviamente, seno... seno, coseno. Funzione, sì, sino e cosino, come diceva quella che faceva. Vabbè. Ok. Comunque, vabbè, possiamo dire che era sex il pezzo dei... Era sex. 666, ecco. Altrimenti... 666. Cioè, almeno quel collegamento Franci, calcola che... No? The number of the beach. Ecco, okay. Hai rovinato tutto. Vabbè, rovinato tutto. Quindi, contributo 2. No, ancora no. Scherzo. Allora, e infine andiamo appunto a vedere come la sezione aurea ha influenzato il mondo della musica. Tralasciando la musica classica, per la quale ci vorrebbe una puntata a parte, la musica rock, specialmente nel cosiddetto rock progressivo, si è confrontata con gli aspetti mistici della sezione aurea, più precisamente con la serie di Fibonacci. L'esempio più emblematico è la musica dei Genesis, che hanno usato assiduamente la serie di Fibonacci nella costruzione armonico-temporale dei loro brani. Third of Fifth è tutta basata su numeri aurei, ad esempio ci sono assoli di 55, 34, 13 battute. Di questi alcuni sono formati da 144 note e così via. Oltre ai Genesis, altre rock band hanno usato i numeri aurei nella loro composizione. Fra questi Deep Purple nel brano Child in Time e Dream Theater nell'album Octavarium, interamente concepito secondo il rapporto tra i numeri 8 e 5 e termini consecutivi della sequenza di Fibonacci. Risale invece al 2001 Lateralus, album della band statunitense Tool, che contiene il singolo omonimo Lateralus, che è il pezzo che si sente nella sigla della mia rubrica, costruito fedelmente sulla serie di Fibonacci e sulla proprietà rigenerativa del rettangolo aureo, che si genera a partire dalla spirale aurea quale fondo ritmico dell'essere e della vita. Proprio di quest'ultimo pezzo andiamo ad analizzare un passaggio, cioè l'estratto della canzone dove quest'ultimo viene scritto in metrica di Fibonacci. Prego il maestro di mandare il secondo contributo. Allora, le sillabe del testo di questo estratto sono infatti così suddivise: black 1, then 1, wide are 2, all I see 3 sillabe, in my infancy 5, red and yellow then came to be 8, e che sono esattamente i primi 6 numeri della sezione di Fibonacci. Infine, in un'altra parte del testo si fa direttamente riferimento alla spirale, cioè alla rappresentazione grafica della sezione aurea. Il testo è il seguente, ovviamente ne leggo una, diciamo, una traduzione leggermente parafrasata. Io abbraccio i miei desideri per sentire il ritmo, per sentirmi connesso, abbastanza da farmi da parte e piangere come una vedova, per sentirsi ispirati, per comprendere il potere, per testimoniare la bellezza, per fare il bagno nella fontana, per ondeggiare nella spirale, per ondeggiare sulla spirale della nostra divinità e essere ancora umani. Madonna fa! Per un attimo sembravamo Virgin Radio, comunque. Quando leggono la traduzione dei testi in italiano. Esatto, c'era una rubrica bellissima che, vabbè, peccato. E niente, dopo tutto questo pippone sul divino, sul diavolo, sui seni dei diavoli, direi che vi lascio con questo pezzo di questo artista che direi che col diavolo ci è andato abbastanza a braccetto, è ancora vivo, non è morto, è ancora tra noi e lotta. Lui è Tom Waits e il pezzo si chiama Heart Attack and Wine. La Sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, se ne è quasi andata la prima ora di divertimento quando entra gamba tesa la rubrica che parla dei testi delle canzoni. Ma vedi te se io, senza saperlo, dovevo prendere questo schiaffone da Franci che ci ha aperto la strada, ci ha addirittura sillabato. Ti butti sempre giù. Sillabato i testi, no? Sempre arricchiti nella prima e nella seconda parte della spiegazione del maestro Casali. Ci portiamo in una parte più faceta del mondo di 100 Celle Avengers, cioè appunto la rubrica che si chiama Aspettando Mogol, che tratta appunto testi delle canzoni. Sigla! Dammi tre parole, paracetamol. Come parla? Scrivo un testo. Scendo tutto dal bar, sembro tutto anche a. Ho speso due cappa su una scala. Come parla? Ma che bella canzone. Le parole sono importanti! Potranno mai le mie parole. Parole, parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Faccia gira dal contrario, giro con il pantalone. Come parla? Sì. parola ancora. Oh, e con questo mare in tempesta, io solo per fare rispetto alla giornalista faziosa Gabri Grubi. No, lo stai facendo. No, vabbè, lo metto soltanto un pochino, poi torniamo a noi, però mi piace comunque. Ecco, sentite. La spiaggia. Perché tutto sommato, aspettando Mogol, già dal nome si capisce che parla di cantautorato, insomma, gente che scrive canzoni, ma in particolare poi quelli che andiamo a punzecchiare sono quasi sempre i cantautori, questi un po' più intimi, un po' più che si scrivono soprattutto le canzoni da soli, non gliele scrive qualcun altro. E per andare a notare questa o quella cosa dei testi. E chi stiamo ascoltando? Diccelo, diccelo. No, adesso stiamo ascoltando il tuo preferito. No, vabbè, questo è Bruno Risas, Guardia 82, pezzo proposto a Musica d'Insieme, scartato per colpa di Gabri. No, comunque poteva rientrare nella rubrica degli scartati, ma qua poi ci accavalliamo troppo, quindi mi fa da tappeto a Mogol. Perfetto. Abbiamo trattato in questa rubrica diciamo aspetti dello scrivere, soprattutto ovviamente in italiano, che ci incuriosivano. Ad esempio abbiamo avuto la puntata sugli accenti spostati, cioè i cantautori che pur di stare in metrica o di stare di dire insomma quello che volevano, erano disposti a stravolgere un pochino gli accenti. Abbiamo assegnato la nostra coppa, in quel caso mi sembra vincesse a mani basse Max Pezzali, chiaramente è inutile starlo a ripetere. Pezzali. Quest'oggi trattiamo qualcosa di simile, nel senso sempre di metrica si sta parlando, però parliamo di quel appunto momento intimo del cantautore fastidioso per quanto riguarda, perché poi c'è sta appunto chi è cantautore perché dice vabbè ormai questo ha 70 anni, lo conoscono tutti e quindi ha sempre fatto. E chi invece già a 16 anni o a 18 già ti porta un mondo di intimità e di cose che perché comunque il cantautore fa pensare sempre a qualcuno che la s'allunga, che ha tutte le cose da dire, ovviamente, sennò da dove ti viene la fantasia di scrivere. Vabbè, comunque detto questo, parliamo dello stare dentro la metrica o lo stare fuori dalla metrica. Quello che voglio dire è che il cantautore quando c'ha l'urgenza di dire qualcosa se ne frega della metrica, anche se ha creato una canzone che ha una sua metrica quasi telefonata, obbligata, comunque c'è la sua armonia di accordi e poi sopra c'è la melodia della voce che si muove dentro quel tempo ritmico. E quindi gli esempi sono tanti, però appunto poi il cantautore che ha urgenza di dire ne esce fuori. Allora, nel senso, quando ci stai dentro completamente c'è una roba del genere. Cioè sentite, scusate, dove lo rimetto? Sentite che è obbligata la cosa, non è che può andare fuori. Cioè se esce fuori da questo ritmo, prometto. Ok, non è necessario andare oltre. Comunque capite che in questo caso è già la canzone che ti fornisce lo spazio dove tu puoi mettere il testo, quello che è, ma non puoi andare fuori, pena la catapulta. E anche in questo caso. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Capite che, sempre senza che vada avanti, ci troviamo in un mondo di obbligatorietà, giustezza. Mentre quando il mondo... Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle. Sentite che flusso. Giuro che lo farò. È continuo. Trovate una ritmica particolare. No. Grazie Iron Man per aver supportato la mia tesi. E quindi a Francesco De Gregori va sicuramente il secondo posto nella classifica virtuale che stiamo creando oggi sui cantautori che mi escono fuori dalla metrica perché hanno urgenza di dire. Mentre mi va a finire che per fare un po' anche diciamo la corte al nostro primo ascoltatore Manu che sta a casa, io cito sempre lo stesso gruppo che le ha fatte tutte e in questo caso recentemente mi sono trovato a ripensare. Qui non si preoccupa di stare in metrica, il mio animo sensibile non mancò di impressionare. Ma lui è maestro, lo sappiamo, gioca con le parole intorno a tante cose, ma comunque principalmente quasi esclusivamente intorno all'annoso problema del controllo delle nascite. Allora il primo premio se lo prendono. Quindi sempre il primo loro. Premio direi che lo prendono gli Elio e le Storie Tese con questa saga di Addolorato, che è solo uno dei tanti esempi di metrica non urgente, diciamo, chiamiamola così, metrica sfasata perché urgenza di dire. E, molto bene, al di là di continuare ad ascoltare questa cosa, la redazione mi fa cenni che io... Prego. No, volevo fare un appunto. Prego, prego, prego. Lasciarci con una domanda. Su Faso? Mamma mia. Su, no, potrebbe dipendere dall'annoso problema della scelta di come iniziare a scrivere una canzone, ovvero chi inizia a partire dalla musica e chi inizia a partire dal testo? Già. È una grande lotta fra il bene e il male questa che stai dicendo. Io... Musica, la musica. Adesso, scusate, io faccio tifo su tutto. Grandissima Virgi, perché c'è un argomento che ho vissuto veramente, perché non si capisce mai in che misura si parta da uno o dall'altro, c'è chi ti dice proprio che se non hai qualcosa da dire la musica è inutile e viceversa. È esattamente il motivo per cui io non ho mai scritto un pezzo, perché non so mai se partire da una cosa o dall'altra, perché mi mette ansia sapere qual è la più importante. Ad Aspettando Mogol lanciamo il primo sondaggio di Centocelle Avengers. Vai Manu. Nel frattempo Manu ha scritto, ovviamente si è palesata sul nostro gruppo e scrive: mi hai letto nel pensiero, stavo quasi iniziando a rosicare per non averlo sentito nominare. Si riferisce ovviamente a Elio e le Storie Tese. Ma te pare. Molto bene, siamo contenti che sia anche online. Grazie il nostro ascoltatore number one. Paul, Michi e Elio. Tra parentesi, così per curiosità, l'8 dicembre Elio sarà al Brancaccio per uno spettacolo. Ah, wow. Pubblicità, per questo, ma lui da solo? Fa uno spettacolo sulla storia di Iannacci, non ho capito bene ancora di cosa parli, nonostante abbia il biglietto. Ah, ecco. Ottimo. Sì, sono ci vediamo lì allora. Betty. Dai. E quindi niente, andiamo a concludere questa parentesi con un vecchio, questa volta sì, un'estate fa, Centocelle Amarcord, dove troviamo uno Stick B, Matteo detto Stick B, che salutiamo in I Need a Dollar, trattasi del saggio invernale 2019. Wow. Incredibile. Wow. Every 2 months only, would the share you dollar on me? Bedtime call me, and I read all out of soul. Hey, hey. Well, let me tell you, so my whole dream is in good. Hey, hey. It's been a long road, travel long the travels road. And I'm looking for somebody for my help to carry the soul. I need dollar, dollar, dollar, and what I need. Well, I need dollar, dollar, dollar, not what I need. Well, I don't know, I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is running down. And I'm worried someone help me. Yes, I had job, but the boss me let me go. He said, I ain't soon a battle. Share it to my sorry, won't share you dollar with me. Well, I know I'm walking on solid ground, 'cause everything around me is growing down. And I wanted someone help me. Yes, I. What in the world I ain't gonna do tomorrow? Is there someone the dollar that could borrow, who can help me make take my sorrow? Yes, I. Oh, maybe she's on the bottom. Maybe it sits on the bottom. I had some good old buddy with the whiskey and wine. And for my good old boy to spend the last of the time. My wine is close to me and at the past of time. I need a dollar and what I need. Hey, hey. Well, I need a dollar and what I need. Hey, hey. And I need a dollar and what I need. And if I share it to my sorry, would you share your dollar with me? Oh, no. Share your dollar with me. Oh, share your dollar with me. No, share your dollar. Give him your dollar. Share your dollar with me. Como share your dollar with me. Oh no, share your dollar with me. Como share your dollar. Give me your dollar. Share your dollar with me. Yeah! Dai, ci siete! Ario, il mondo della radio è un pasticcio. Radio Forte, 100 Cell Avenger è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Radio Forte 100 Celle Avengers mi hanno informato che il professor Casali ha un impegno a un convegno. Purtroppo. Un impegno a un convegno. che infelice rima. Mi perdoni, professore. È un impegno lavorativo, purtroppo. Purtroppo mi tocca, però volevo approfittare di questi proprio questo minutino scarso prima che me ne vado per fare purtroppo un triste annuncio, perché oggi è venuto a mancare Nico Fidenco, che per chi non lo conoscesse, insomma, è qui rubo un po' del nord del nerd, insomma, è stato l'autore di tante sigle dei cartoni, che ne so, Don Ciaccastoro, Bambi il mostro umano, Sammy il ragazzo del West, insomma, vabbè, ha fatto tante cose fighe e carine, quindi va bene, niente, volevo solo dedicargli, ecco, un minutino così al volo. Facciamo un grande applauso. Fa la sua uscita il maestro Casali, riportandoci è un po' funesta, però va bene. Alla realtà, così. Però arriva bene. In effetti, non avevo compreso la notizia, è già arrivata dall'altra parte nella pausa. Oggi, purtroppo. Siamo una redazione sul pezzo. Sempre aggiornati. E niente, allora io vi saluto. E come disse Nick Diamond in Celebrity Deathmatch, buonanotte e buone botte. Grazie della altro lezione. Applauso, se l'ha chiamato. Ci lascia il professor Casali mentre è il momento buon convegno. È il momento del nord e del nerd. Passo la linea alla mia destra. Su questa notizia molto nerd, giovane, tu che al liceo invece di studiare matematica ti guardavi i Cavalieri dello Zodiaco, è arrivato il tuo momento. Sigla! Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso il Radio Forte 100 Celle Avengers, è una rubrica dotta che si chiama Nord del Nerd. Come l'ha chiamato? Nord del Nerd! Nord su Nord del Nerd, su 100 Celle Avengers. Buonasera, piccoli nerd. Ma non mi è partito il sottofondo? Partirà? Chi lo sa? Suspense. Appunto. Oggi volevo parlarvi di un film che in realtà è stato già citato molte volte su questo soppalco. Sì. Amadeus. Amadeus è un film del 1984 diretto da Milos Forman, tratto dall'omonima opera teatrale di Peter Schaffer e liberamente ispirato alla vita dell'eterno compositore Wolfgang Amadeus Mozart. La storia parte dal presupposto, nella realtà quasi certamente infondato, di un acceso antagonismo tra il giovane musicista salisburghese e il compositore Antonio Salieri. Il film inizia con il tentato suicidio di Salieri stesso, musicista di corte, che si accusa di aver contribuito alla morte di Mozart 30 anni prima. I suoi servi accorrono e lo fanno trasferire in un manicomio, dove sarebbe stato meno felice che in un matrimonio, dove poco dopo riceve la visita di un giovane sacerdote che lo sprona a confessare i tormenti che lo affliggono. All'affermazione che agli occhi di Dio tutti gli uomini sono uguali, Salieri comincia a suonare alcune delle sue melodie per dimostrare il contrario. Il prete fatica a riconoscerle, tranne una, Eine kleine Nachtmusik, scusandosi perché ignorava che fosse sua. Salieri, ironico, gli risponde con tristezza: questo era Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart. Inizia così a raccontare le vicende di quegli anni, tutte le invidie, l'amore, l'odio, i risentimenti. Ogni scena è accompagnata da una serie di capolavori che includono anche intere scene tratte dalle sue opere, fino ad arrivare alla fine all'interna incompiuta, il Requiem. La messa di Requiem in re minore K626 è stata fonte nel tempo di dissidi e leggende. Stendhal, in Vite di Haydn, Mozart e Metastasio del 1815, racconta di un anonimo committente che si presentò alla sua porta nel cuore della notte con una maschera, un mantello scuro, un'aria lugubre e una borsa contenente denari. Questi incaricò Mozart, malato e caduto in miseria, di comporre in 4 settimane una messa di Requiem, dietro compenso di 50 ducati. Secondo Stendhal, Mozart tentò di scoprire chi fosse il misterioso committente, ma quando le forze cominciarono a mancargli per il duro lavoro e si rese conto di non riuscire a identificare l'uomo, il compositore si convinse che il committente fosse un emissario dell'aldilà, che lo avesse incaricato in realtà di scrivere la messa di Requiem per se stesso. Le ipotesi di Stendhal non si allontanano in realtà molto da quanto poi è stato riscontrato con successive indagini che hanno portato a una ricostruzione degli avvenimenti. Il messaggero sconosciuto, secondo alcuni racconti, altri non era che un incaricato del conte Franz Walsegg di Stuppach, musicista dilettante, proprietario di una cappella privata dove era solito eseguire composizioni non sue, ma che faceva arbitrariamente passare per proprie. Volendo commemorare la giovane moglie, la contessa Anna Edlen von Flamberg, decise di commissionare a Mozart per la somma di 50 ducati un requiem che avrebbe poi spacciato per suo. Grande! Bravissimo! Nel film, seguendo un'altra leggenda, viene identificato il misterioso committente nello stesso Salieri, intenzionato a far scrivere l'opera a Mozart per poi ucciderlo e farlo suonare al suo funerale. Ognuno si diverte come vuole. Questo dà vita a scene meravigliose, come quella in cui viene ritratto lo stesso Salieri al capezzale di un Mozart ammalato, depresso per via della morte del padre e dall'alcolismo, che cerca di aiutarlo a scrivere il Confutatis Maledictis, che sentite in sottofondo, condannati all'eterno tormento. Qui viene mostrato un Salieri frustrato e disperato dal non riuscire nemmeno a seguire il flusso creativo di Mozart, che cerca di dettargli le parti senza un senso apparente, per poi risultare in un'opera complessiva magnifica. Questo sulle note del Confutatis, che preannuncia di per sé la giustizia divina che condannerà i maledetti alle fiamme e salverà i beati, rispecchiando in qualche modo il senso di colpa di Salieri per quello che sta facendo al fiducioso Mozart. A questo seguirà infine la morte del povero compositore e con ciò la scena del suo funerale, di cui ci parlerà Virgi, da sempre super fan di questo film. Mamma mia! Ma va no, di lei! Ma iniziamo subito così, Iron Man, ma che si può, ma veramente? Chiedo scusa. Grazie. Allora, sì, la scena, diciamo, del funerale è una scena in cui noi troviamo appunto la fine di questo film, culmina appunto con la scena del funerale che è, diciamo, molto fedele alla realtà. L'unica differenza che troviamo con la realtà è l'assenza, in realtà, della moglie Costanza di Mozart, che non riuscì a partecipare al funerale perché è troppo disperata e non, appunto, non riuscì ad andarci. Questa è una delle poche differenze, perché in realtà nel funerale appunto che si svolge nel film noi troviamo la scena in cui il corpo di Mozart viene gettato in una fossa comune. Questo ci riporta un po' alla mente la disperazione a cui era arrivato il compositore, anche appunto a livello reale, a livello economico, insomma, ma nella realtà, diciamo, era un funerale non da poveri, ma sicuramente non dal personaggio importante che era in quel momento. Vorrei Wow. Ah, scusate. Senza pulsanti non capisco bene. E quindi vorrei un po' parlare. Oh, adesso inizio il fastidio. Non fare. No, non ce la farò mai. Non capisco. Non ci leggo bene sul quadernino, scusate. Allora, quindi no, niente, vorrei parlare un po' della leggenda che c'è dietro la morte appunto di Wolfgang Amadeus Mozart. abbiamo già parlato sia ora sia in passato di come questo film non possa considerarsi un biopic, in quanto tratta una storia di fantasia appunto uscita e scaturita dalla mente di Peter Schaffer, che era lo sceneggiatore teatrale dell'opera. E la storia di fantasia è semplice, appunto, come diceva Betta. Troviamo un prete chiamato in un manicomio per assistere un anziano, Antonio Salieri, delirante, che si autoaccusa della morte di Mozart. Ma se è una storia di fantasia, in realtà dalla fantasia di chi è uscita? La realtà è che è uscita dalla fantasia dello stesso Salieri. Infatti Antonio Salieri, colpito da demenza senile molto anziano, iniziò a credere e ad annunciare pubblicamente di aver assassinato Mozart 32 anni prima. Molti iniziarono a far circolare insistentemente questa voce, tanto che Salieri venne anche difeso, se non sbaglio, proprio da degli avvocati. Ma le prove, e questa è una parte un po' crime, un po' true crime di questa puntata. Così. No, crime. Ci sarà la sigla, tranquillo. Se stiamo anticipando delle cose che. Ma le prove, appunto, non sono mai state trovate né nelle tracce di un avvelenamento sul corpo di Mozart, che poi è stato riesumato, né nella fattualità degli eventi e dei rapporti fra i due. Infatti, non avrebbe potuto portare. Salieri non avrebbe assolutamente potuto portare avanti un'opera di avvelenamento così ampia, visto che Mozart iniziò a sentire, a provare i primi sintomi della malattia che poi lo portò alla morte già 2 mesi prima di morire. Poi arrivò al momento in cui si dovette appunto mettere a letto e non uscire più per 2 settimane, da cui appunto non uscì più. Quindi diciamo che i rapporti fra i due ci portano a credere che fu impossibile per Salieri effettivamente avvelenarlo per un periodo così lungo di tempo. Quindi diciamo accantoniamo questa teoria, e una delle uniche persone, diciamo, che poté portare avanti la tesi dell'avvelenamento fu Mozart stesso, che sul letto di morte iniziò ad accusare persone indefinite proprio di averlo avvelenato. E la storia di Peter Schaffer è quindi sicuramente romanzata, ma gli spunti reali sono ben più di quanto ci si aspetti. Come abbiamo già detto, Amadeus appunto non può essere considerato una biopic perché parla di una storia di fantasia, ma in effetti possiamo tranquillamente affermare che Amadeus sia la storia vera della fantasia di un anziano affetto da demenza senile. Wow, ragazzi, certo che è fatto. Grazie degli applausi. Applausi. Bello. E con questo possiamo considerare chiusa la questione, cioè, posso dire che c'è, sta pure qualcuno che dice che è vivo. La locandina della nostra puntata sui biopic, vorrei fare questo appunto a margine. E mi sembra che sia proprio Amadeus. Tratta da Amadeus, sì. Proprio perché, cioè, proprio perché ha detto di no, ma non noi è un biopic. L'abbiamo messo fra i biopic. Vabbè, è bello cambiare idea. L'idea di parlare di Amadeus non fu nemmeno mia. Ecco. Mi tiro fuori. No, però hai aggiunto poi un qualcosa che poi riporta più o meno a verità questa cosa, perché poi in fondo è un biopic, nel senso era tutto nella fantasia di Salieri. Per cui in compenso, infatti, avete fatto una doppia saettata sull'argomento che... Queste sono tutte idee originali a 100 Gel Avengers. Questo è quello che accade quando due sionisti si uniscono o si incontrano, si incespicano sullo stesso argomento. Lo stavo a fare io. E quindi poi... No, è andata molto più liscia. Semplicemente eravamo liberi ieri sera. Ho trovato 75 messaggi in chat nel giro di mezz'ora. Ma bravi. Questo solo? È quello che accade quando c'è sinergia. Vabbè, comunque 100 Cell Avengers è un programma coraggioso che non ha paura di ammettere i propri errori del passato. Esatto. E su quelli del presente poi ne parliamo. Vabbè, quello futuro, sì, ne parleremo in futuro, nelle prossime puntate. Come si dice, oggi è come ieri. E francamente me ne infischio, come diceva Retta. Ma mi pare che, vabbè. Abbiamo ancora una scaletta bella, ricca, ricca. Aspetta, non è finito. Scusa, imperdonabile, scusatemi. Abbiamo fatto partire gli applausi. Posso mettere non il confutato? Cioè, abbiamo capito il confutato? Sì, vabbè, abbiamo capito. Va bene anche così? Sì, puoi confutarmelo. Prego. No, c'era un'ultima cosa che volevo dire, che da sottofondo alla scena del funerale di Mozart c'è il Lacrimosa, uno stupendo pezzo sempre appartenente al Requiem, pensato per riuscire, attraverso l'utilizzo di brevi frasi di cromi ascendenti e discendenti assegnate ai violini, contornate da una scrittura corale di ampio respiro, a creare l'effetto di un pianto astetto trattenuto, quello della Madonna sotto la croce del figlio morente. Il movimento dei violini mima un respiro affannoso, disperato, che quasi si sente al di là della musica, ma vorrei provare a farvelo sentire. Maestro, mi mandi il Lacrimosa. Lo senti il respiro? E questo era quello che volevo farti sentire. Non so se avete notato questo ritmo. È singhiozzata. Sì, questo affanno. Mi vengono i brividi, sinceramente, ogni volta che lo sento e penso a questa cosa. Comunque, che dire? Amadeus è stato un film meraviglioso, costato 18 milioni di dollari e che ne guadagnò 55 addirittura nel primo mese dopo la prima, sebbene fosse stato proiettato solamente in 100 sale. Un particolare applauso va a Tom Ulce, l'interprete di Mozart, che per recitare questa parte nel film prese ripetizioni di pianoforte per più di 4 ore giornaliere per poter poi risultare naturale sulla pellicola. Regà, se mi esercito io 4 ore al giorno a suonare, i miei maestri dalla felicità piangono più della Madonna nella Lacrimosa. Vabbè, ma era Mozart. Cioè, pure te. Vabbè. Grazie Serena, grazie Corrado, scusate, sono una bimba discola. Salutiamo i maestri. Salutiamoli. Piccoli nerd, l'angolo del nord volge al termine. Vi lascio proprio con il Lacrimosa, ma stavolta in una versione un po' diversa. E la buttiamo in caciara. Dai, grande Virgi, cioè 75 messaggi, raga, ma sono serviti, cioè è uscita una cosa meravigliosa. Questa versione del Lacrimosa è stata scritta da Emily, che fu folgorata anche lei da piccola da questo stesso film, tanto da decidere poi di scriverci un pezzo sopra, usando come sample, come mi faceva notare la cara Virginia, una parte del Lacrimosa, ma stavolta in Mi minore invece che in Re minore. Ve lo lascio per voi, Lacrimosa, Evanescence. One. Di nuovo in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers alle 18.23, gonfi di contenuti tutti riguardanti Wolfgang Amadeus Mozart. Mi sta bene così, imparo a prendere in giro i grandi miti e soprattutto Virginia e Betta, che ci hanno fatto una monografia radiofonica. E non è finita. Per chi si fosse collegato soltanto adesso, è finito Mozart, a posto, è morto comunque. 1790. Bisogna guardare avanti. Comunque tutto sommato bisogna guardare avanti, noi siamo il futuro. E dico cose perché appunto siamo nell'attualità, mi sembra di ricordare, se non sono troppo stordito dalla cosa, e quindi quelli che erano appunto i quattro elementi, che adesso non sono più i quattro elementi, quindi per me adesso è così. Scusa Betta se sono andato così a gamba tesa senza dirti niente. Tutti sul fader. Allora, il problema adesso è che non c'è più il professor Casali. Il professor Casali avrebbe riconosciuto subito questo tema. Virgino. Betta, sto guardando le facce dei nostri amici redattori. Via col vento. Via col vento, sì, più o meno. Allora, trattasi di l'ultimo, cioè vabbè, insomma, trattasi di John Barry, compositore della colonna sonora dell'ultimo combattimento di Chen. Bruce Lee. Vabbè, questo per dire che parliamo di, cioè, una situazione che si è spaccata in due. Finché erano quattro, voglio dire, non è che potevamo, cioè sì, c'era la competizione, ma era più una cosa, no? Tipo, ma chi? Dillo. Parliamo, scusate, della musica d'insieme. Di nuovo attualità, quando dico attualità o so cosa è successo al Forte, l'abbiamo dette, o è la scuola di musica ovviamente. Scusate. Avete ragione, non c'è una sigla che introducesse la cosa, e questa è parte del problema. Io ci avevo creduto tantissimo, invece, che io potessi avere già una sigla. Sì. No, sta di fatto che metto delle cose così a caso per trovarci bene, per trovarci comodi a parlare della situazione di quest'anno. Quest'anno i gruppi sono due. Un gruppo si chiama Jen and the Holograms. Fantasioso nome inventato da dei vegliardi maestri, anzi un vegliardo maestro che l'altro è molto giovane. L'altro gruppo è... niente, è morto tutto. L'altro gruppo, su questo ritmo un po' più rilassato ma ugualmente sbarazzino anni 80, sono i Beehive. Lo so. Tutto questo manca di una sigla. Questa cosa è frustrante per me, perché anche quest'anno noi analizzeremo al microscopio la scuola di musica, andremo a spiare nelle sale prove e vi riporteremo tutto. Ma che fine ha fatto il DR100? Appunto, il DR100 è in riparazione, come gran parte delle cose che porto nello zaino. E però, appunto, adesso intanto vi stiamo facendo un grandissimo hype, stiamo creando hype, come dite voi giovani, su questa rubrica che si affaccerà, non si chiamerà lo Stos Elementos, purtroppo, ma tratterà comunque... la competizione fra due mondi, il mondo del bene e il mondo del male. No, non è vero. Però, vabbè, faccio sentire questa versione qua con le botte sopra, si capisce meglio. Vabbè, insomma, praticamente ascolteremo più volte contributi come numeri. È un po' come numeri del maestro Casali, che mi avrebbe riconosciuto questa sigla. E niente, vabbè, lascio Freeway. Rimaniamo sui BI. E traghettiamoci verso nuovi orizzonti. Fettine panate. Mentre potrei dirvi che la classe di musica d'insieme consta di David Holograms, sono Davide, Giuseppe, Stick B, Fabrizio, Anita, Daniela, Collacchione, anche detto Francesco, Giulie, Viola e Marco alla voce. Mentre i Beehive, comunque ve li presenteremo meglio di così, sono Alessandro, Alessandra alla batteria, Virginia, ciao, non so se la conoscete, al basso, Franci, il maestro Casali, che se n'è appena andato, al piano. Poi abbiamo Simone e Elias alle chitarre e Fana, Manu e Alessandra, l'altra Alessandra, al canto. Incredibile, vi lascio con queste notizie di attualità sempre aggiornata, mi volano tutti i fogli come fu in quel saggio, grazie dell'applauso, in quel saggio del 1900, non lo so. E... ma questo tra l'altro, scusa se ti interrompo, perché prego, ci traghetta proprio verso il prossimo contenuto, che già era? Che hai citato uno dei due gruppi, in particolare appunto i Gemelle Holograms, sì. Porteranno fra gli altri, se ho ben capito, un pezzo, questo è ovviamente un'anticipazione del proprio super che vi faccio. Metto Gemme, dimmi. No, degli Strokes, giusto? Il brano che pare sentivamo di, oggi. Pare di sì, si dice, si mormora dal che è uno titolo, dei pezzi, non me lo ricordo, comunque abbastanza noto, un brano molto abbastanza conosciuto degli Strokes. E noi adesso ne andiamo a sentire un altro invece, che è quello forse più conosciuto degli Strokes ed è Reptilia degli Strokes, un centocelle Avengers. Ci traghetta verso Radio, la prossima rubrica, che è Artifici, ma vai col brano Radio 40. Rientriamo in voce alle 18.33 da questo rock spumeggiante degli Strokes. Passiamo alla prossima rubrica, che è Artifici. E quella che ci arriva da lontano, mandata da, ci arriva da Cosenza, da Angelo, e, che è anche che è in ascolto, che salutiamo, e che oggi ci parla della, di un tema molto interessante, insomma, a noi caro, arte e committenza. Un qualcosa che poi anche nella musica esiste molto, insomma, la vediamo questo, invece in questo caso dal punto di vista dei, di, dell'arte pittorica. E quindi, maestro, mandiamo subito la sigla di Artifici e poi vai col post prodotto. Grazie Angelo. Grazie Angelo. Non conoscendo affatto la storia dell'arte. Grazie Angelo. Grazie Angelo. Sempre gradevole, sempre importante. Grazie Angelo. Grazie Angelo. Ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. Amiche ed amici di Radio Forte e di Cento Celle Avengers, buon pomeriggio. Siamo al quarto appuntamento di Artifici. La pillola di oggi riguarda un argomento molto interessante, arte e committenza. Come sottotitolo potrebbe starci il cammino dell'arte e degli artisti verso la libertà. A noi può sembrare scontato che chiunque voglia dipingere, scolpire, scrivere, comporre musica, no? Si attrezzi del necessario e dia libero sfogo al proprio estro artistico. Sembra anche scontato che chiunque poi sia libero di proporre le sue opere, esporle, quantomeno pubblicarle in rete o secondo i canali tradizionali. Bene, non è stato sempre così. Cioè la libertà di esprimere e manifestare il proprio estro artistico è un valore che si è conquistato abbastanza di recente dopo una storia durata millenni. Quel cammino, e vedremo perché sono millenni, quel cammino verso la libertà di arte e artisti può ritenersi suggellata da una frase, un motto, che è impresso sul frontone del della palazzina della secessione, che a Vienna, inaugurata a Vienna nel 1898. Sul frontone c'è questa frase, la dico in italiano e non in tedesco perché non mi azzardo. E dice questo: ad ogni tempo la sua arte, ad ogni arte la sua libertà. Ora immaginiamo che, noi sappiamo, ricordiamo che nel 1938 i nazisti tolsero quella frase, perché è ovvio che dava fastidio, e sappiamo che ancora oggi, laddove governano regimi autocratici, le forme di espressione artistica non sono libere, così come da qualche giorno, per esempio, grazie a un decreto legge, non sono più libere le forme aggregative. Mi riferisco esplicitamente al decreto sui rave, per vietare i rave, ha imposto restrizioni e pene che possono essere applicate non solo ai rave, ma a tutte le manifestazioni aggregative, spontanee. Quindi la libertà è sempre un bene da conquistare giorno per giorno. Il rapporto tra arte e committenza ha segnato, che poi è appunto il rapporto tra arte e libertà, ecco, ha segnato tutta la storia dell'arte, nel senso che a cominciare dall'apparire delle prime forme artistiche, fino ad un passato abbastanza recente, tra poco lo vedremo, la committenza ha sempre determinato strutture, forme e stili. E se qualche progresso c'è stato, ciò è dipeso solo dall'estro di un singolo artista, però anche per un verso dalla lungimiranza e dalla disponibilità della committenza a recepire le novità che l'artista proponeva. Per altro verso, dalle essere state quelle novità recepite anche nel contesto sociale nel quale venivano proposte. E tutto ciò ha favorito il successo dell'artista, che innovava e man mano che aumentava l'accoglimento della sua produzione artistica innovativa, aumentava la sua forza contrattuale. Nella precedente pillola abbiamo visto, a proposito dell'arte preistorica, che le pitture parietali non avevano una funzione estetica, cioè non venivano realizzate per abbellire le caverne. Allo stesso modo, le prime statuine che rappresentavano figure femminili, parlavamo una per tutte della Venere di Willendorf, non erano soprammobili da mettere nella caverna. Nella caverna non c'erano né mensole, né librerie, né armadi nelle caverne. Quindi le opere artistiche avevano una funzione magico-propiziatore, questo l'abbiamo detto. A rigor della nostra logica, l'arte paleolitica, quindi, che non nasce come fatto spontaneo, ma nasce come attività dotata di una finalità ben precisa, assegnata dal clan, secondo la nostra logica non potrebbe neanche chiamarsi arte. Che l'arte per l'arte è un concetto che risale a Théophile Gautier, scrittore, poeta dell'Ottocento francese. Però, a ben vedere, la produzione preistorica, se non può chiamarsi arte perché ha una finalità, non è nemmeno un'attività artigianale, intendendo per attività artigianale quella che, all'esito della quale vengono prodotti strumenti e manufatti utili. La differenza è sostanziale. I prodotti utili, cioè i prodotti di artigianato, sono frutto dell'esperienza empirica. Le forme d'arte sono frutto di astrazione del pensiero, cioè della fantasia. Per esempio, un bastone appuntito ha capacità di penetrazione maggiore di un bastone non appuntito. Una pietra legata all'estremità di un ramo si trasforma in una mazza che poi costituisce il prolungamento del braccio e consente di lottare a distanza dell'animale da catturare o del nemico da uccidere, evitando il corpo a corpo. Ma se la pietra è scheggiata ed è opportunamente lavorata, diventa un'ascia, quindi non più solo uno strumento contundente, ma uno strumento da taglio. Quindi l'artigiano si muove lungo la sintassi dell'esperienza empirica, pratica. L'artista compie un'operazione diversa, opera attraverso l'immaginazione, la fantasia, un salto di qualità notevole, cioè identifica il bisonte già catturato e ucciso e rappresentato nella finzione iconografica col bisonte ancora da catturare e uccidere. Quindi, dicevamo la volta precedente, che quelle figure hanno una funzione propiziatoria, magico propiziatore. Dicevo la volta scorsa che gli adolescenti scrivono infinite volte sul diario, su fogli, il nome del ragazzo o della ragazza amata, quasi che quel nome, quello scrivere quel nome, desse già l'idea di possedere, tra virgolette, la persona amata. È interessante vedere che nel Neolitico le cose cambiano un po', si passa da una figura, da una pittura realistica, rappresentativa, perché appunto aveva una funzione, ad una pittura astratta, cioè venuta meno la necessità di dipingere gli animali da catturare, e avendo l'uomo del Neolitico e quindi il sapiens, avendo bisogno di strumenti e utensili diversi dalle armi per il suo quotidiano, e quindi vasi, piatti, scodelle, eccetera, comincia a dipingere questi oggetti, questi utensili, in maniera astratta, cioè con dei segmenti, con dei segni che avevano, quelli sì, una funzione estetica. Ed è stato forse un'anticipazione della liberazione della produzione artistica dalla committenza, perché probabilmente nessuno chiese al Sapiens che faceva realizzava la scodella, l'anfora, di abbellirla con quei segni. Quando, andando più avanti, si arrivò al fenomeno della urbanizzazione, quindi lo sviluppo, con il conseguente sviluppo degli organismi di potere e di amministrazione, le cose cambiarono di nuovo. Perché? Perché il capo politico ha sempre abitato in un grande edificio, circondato da una corte di collaboratori, e abbastanza presto ha avuto desiderio, bisogno, che i luoghi di potere venissero abbelliti, esaltati, con segni e simboli, che mettessero in evidenza il suo status, il suo potere, per meravigliare e soggiogare i suoi sudditi, ma anche per impressionare gli altri popoli. Questo meccanismo è andato avanti per secoli. Ora devo saltare tutto quello che avevo intenzione di dire, perché siamo già prossimi ai 10 minuti. In sostanza, ogni potere politico, religioso, ha usato l'arte come strumento di propaganda. Anche i cristiani, che dovevano restare aderenti ai precetti biblici secondo i quali non si dovevano rappresentare né Dio né eventuale, vabbè, allora c'era solo Dio per gli ebrei, per i cristiani poi si è formato un pantheon infinito, non si dovevano rappresentare né Dio né soggetti legati ai culti con delle immagini. Ma quando Gregorio VI, Gregorio Magno, nel VI secolo, capì che era difficilissimo sradicare l'amore per le rappresentazioni, le pittoriche e anche per le statue del popolo, e capì che importanza poteva avere la pittura per la propaganda della sua religione, e disse: sì, la pittura può servire all'analfabeta quanto la scrittura a chi sa leggere. Quindi la pittura intanto può esistere in quanto essa rappresenti fatti, personaggi ed eventi tratti dalle scritture. Devo saltare tutto e arrivare alla metà, fine 800, allorquando i pittori, gli impressionisti innanzitutto, si svincolarono dalla committenza e cominciarono a dipingere per i fatti loro, affidandosi all'evoluzione, al gusto dei loro contemporanei e sperando che le loro opere venissero vendute. Alcuni hanno avuto successo, altri no. Paradigmatico è l'esempio di Van Gogh, che in vita vendette solo un quadro tramite il fratello e poco dopo la sua morte divenne famosissimo, e oggi le sue tele sono tra le più ambite e pagate del mondo. Devo concludere qua, alla prossima, grazie, arrivederci. Stai ascoltando Radio Forte e questo a Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta, mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. Radio Forte, Centocelle Avengers, alle 18.47, passo velocemente la linea a Virginia in zona Cesarini, dove ama stare. Io non amo per niente stare qui. Allora, no, è un grande ritorno, stiamo per assistere a un'ennesima puntata della rubrica Video Dance on the Radio, quindi posso mandare la sigla. Batmo de Gage. Bravo. Ma Virgi, che hai? Ti vedo giù. Ma come? Io avevo pronte le coreografie, i costumi, trucco, parrucco. E chi le vede mo ste cose? Senti, io. Cos'è? Il musical senza la dance. Capito? Ok, Virgi. Oh, e grazie del sottofondo. Allora, no, innanzitutto non amo stare in fondo, ma ripeto, ribadisco, mi ci sono messa da sola. Mi ricordo la mia vecchia insegnante di danza, per rimanere in tema, che si metteva sempre dietro e poi mi diceva perché sto sempre dietro. Comunque, oggi di che parliamo? Il sottofondo ci chiama immediatamente il Rocky Horror Picture Show, che è conosciutissimo ovviamente da tutti ed è un musical teatrale di Richard O'Brien, creato nel 1973 con il famosissimo adattamento cinematografico del 1975. La versione originale teatrale è The Rocky Horror Show, mentre il titolo del film è The Rocky Horror Picture Show, ed è diventato gradualmente un film di culto dopo essere partito come invece un grandissimo flop. La trama inizia semplice. Brad e Janet, fidanzati di fresco, vogliono rivedere il loro ex insegnante di scienze a scuola prima di sposarsi, perché per loro era stata una figura importante. Così partono in macchina una sera, ma la gomma della loro macchina esplode a pochi metri da un castello. Brad e Janet andranno poi a chiedere aiuto all'interno del castello dopo lo scoppio di un grosso temporale e incontrarono appunto il padrone di questo castello. È il dottor Frankenfurter, un novello Frankenstein, creatore anche lui di una creatura, stavolta però bellissima, di nome Rocky. E da qui, se non l'avete ancora mai visto, non vi dico più niente sulla trama, che vi rovino un capolavoro. Ma come è nato un musical così longevo? Tutto è iniziato nei primi anni 70. A Londra, il musical Jesus Christ... Jesus Christ Superstar, ok, anche la pronuncia di oggi è andata, stava andando fortissimo, quando una sera una delle comparse viene licenziata. È proprio Richard O'Brien che decide da lì di portare avanti il lavoro e avere un riscontro economico nello scrivere un musical tutto suo. Per chi non lo sapesse, Richard O'Brien è questo. I think perhaps you better both come inside. Oppure questo. It's astounding. Time is fleeting. Che è più chiaro. Madness takes its toll. Gli attori del film sono sostanzialmente anche gli attori del musical a teatro, con poche differenze. Ad esempio troviamo il cantante Meatloaf fare uno solo dei due ruoli che svolgeva a teatro. Infatti nella versione teatrale Meatloaf ha assunto il ruolo del Dr. Scott e di Eddie, mentre nell'adattamento cinematografico abdicherà a Jonathan Adams il ruolo del Dr. Scott. Dato il grande successo negli anni e i diversi adattamenti, questi ruoli passeranno a svariati altri attori e, piccola curiosità, anni dopo in un'edizione australiana verranno assunti da Russell Crowe in persona. Il gladiatore ha fatto Eddie. Beautiful mind. Esatto, il gladiatore. Per chi non... è della Roma, tra l'altro. Per chi non lo conoscesse, comunque, Meatloaf è questo. Oppure questo. Allora Giorgio, mi voglio presentare. No, io maestro, sono mi sta sbagliando i contributi. Mi sta sbagliando. È il contributo 3. Eccolo Eddie. Ops. Maestro, mi ha spoilerato il proseguo della... Adesso è andato tutto... Ma nessuno l'ha riconosciuto. Certo. Il film detiene anche il record per la più lunga uscita nelle sale della storia del cinema, poiché a più di 40 anni dalla prima programmazione fa ancora parte della programmazione di diverse sale in tutto il mondo. E vi voglio lasciare con la profonda invidia che io provo per la innata sensualità di Tim Curry nei panni del dottor Frankenfurter, il vero protagonista della vicenda, lo scienziato pazzo alieno che crea un mostro, sì, ma stavolta perfetto. E per chi non lo conoscesse, Tim Curry è questo. Contributo 5, maestro. Allora, Giorgio, mi voglio presentare. Io sono Pennywise, il clown danzante. Oppure, nel Rock and Roll Picture Show, è questo. How do you do, see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down, because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite. I'm transsexual, Transylvania. Let me show you a rhyme and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite. From transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Night. Or maybe a bite. Night. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, I'm just a sweet transvestite. Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. Il mondo della radio è un pasticcio. Radio Forte, gente che la vende, è molto meglio di qualsiasi cosa abbia nessuno. So I'll remove. Ma come ci stava bene? Non lo so, il regista ha comandato e il fonico ha agito, non so cosa è successo. Ah, non era fatta apposta, quindi. No, pensavo si fosse rotto tutto. E invece no, rientriamo in voce nella famosa zona Cesarini, dove sono in realtà finito io. E quindi alle 18.56 su Radio Forte 100 Celle Avengers vi sentite le lamentele dei fonici. Le lamentele dei fonici in questa meravigliosa radio hanno un loro spazio, una loro sigla. Si chiama la trasmissione Traumi Fonici e vado... senza oltre sì. Sei fregato. Che cazzo state dicendo? Andiamo. Sono il vostro fonico. Siamo nella valle, bello. Mi sono emozionato. Ci sono un sacco di fonici qua. Ebbene, alle 18.56 su Radio Forte 100 Celle Avengers ci lamentiamo di cosa? Vi rimetto un po' in sync, sincronizzate su sta cosa, come mi dicono al lavoro. Dice, Su quello che ci siamo persi anche quest'estate. Infatti diciamo che il sottofondo dovrebbe essere questo. Eravamo ad Arbatax, in Sardegna. Yo. Si consumava uno degli eventi più, diciamo, grossi e colorati e farciti da me vissuti, e in quel di Arbatax in Sardegna, pensate, c'era anche Gabri Grubi, la giornalista faziosa che voleva fare dei servizi scoop. E a Ferragosto si esibiva 50 Cent, niente poco di meno che 50 Cent, che al momento posso dire $1, in quanto, cioè, l'abbiamo ritrovato abbastanza, diciamo, rinforzato rispetto a come lo si conosceva nel video della canzone che state ascoltando. Sa di fatto dov'è il trauma fonico? Perché è tutto bello, è tutto figo, ci sta pure la location a tuo favore. Allora, anzitutto cercate di capire che il concerto di 50 Cent è una cosa che ferma i porti. C'è stava il porto accanto al palco e avevano un accordo con la produzione del palco in modo tale che le luci del palco non infastidissero le navi che dovevano attraccare. Non dico ci dà fastidio la musica, cioè, dobbiamo far attraccare le navi se possibile. E ha vinto il luciaio di 50 Cent. Vi dico solo che la capitaneria di porto se è andato lì, che voi dove... lui ha detto proprio non mi rompe, cioè, yes, hanno man. Vinto loro, per dire. Comunque, io. Questo nell'ambito delle luci, che non mi riguarda. Io ero sul palco e a un certo punto arriva un nomino che comunque era il mio, diciamo, omologo, cioè quindi ultima ruota del carro di 50 Cent, che va dalla prima ruota del carro del nostro palco e gli dice delle cose che noi non capiamo, vediamo soltanto questo che si mette le mani nei capelli, sbarra gli occhi e dice oddio oddio oddio oddio oddio, oddio. Tutto questo a un quarto d'ora dall'inizio del concerto più storico di tutta l'ambaramba, 50 Cent non si vede sui palchi da non so quanti anni, e insomma questo ci comanda di spostare la postazione DJ e tastiere di mezzo metro. Ora voi direte, vabbè, ma di che stai a parlare? Allora, la postazione DJ e tastiere di 50 Cent era una piramide di pedane, di quelle che si usano appunto nel mondo dello spettacolo, devono reggere grossi pesi, quindi sono molto pesanti e erano in piramidate, come dire, una piramide, cioè una cosa che non pensavamo si potesse fare. E invece appunto lo sforzo di tutto e praticamente il personale presente in quel di Arbatax ha fatto sì che l'Italia si facesse valere di fronte a questi, no, che è stato uno schifo, e ci siamo vissuti malissimo, perché poi abbiamo dovuto spostare e rispostare nel giro di pochi secondi. Ma questo è lo spettacolo, questo è Traumi Fonici, e mancano pochi secondi, quindi io esco un po' dal mio trauma e approfitto per salutarvi con una, comunque è stato un seratone, una, cioè, semicalma, dal punto di vista, non so, del quanta pubblico, calma in realtà. È stata una bella serata dal punto di vista del pubblico, ma a questo punto, ricordando Arbatax, ricordando che ci sentiamo alla prossima sigla. Arrivederci a tutti.